1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, cari ascoltatori, le 7:20 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Con noi avremo Antonio Di Pietro alle 8:15, leader dell'Italia dei Valori, che soprattutto corre per appoggiare Antonio Ingroia come candidato premier per Rivoluzione Civile. Poi parleremo e torneremo a parlare della vicenda Montepaschi, di banche, potere, banche, politica. Con noi avremo due tesorieri e deputati uscenti. Antonio Misiani è il tesoriere del Partito Democratico e Maurizio Bianconi è deputato e uno dei tesorieri del Popolo della Libertà. Questo è il menù degli ospiti, allora andiamo a vedere cosa ci propongono i giornali in edicola. In questo martedì 29 gennaio intanto i titoli: Il Sole 24 Ore, Montepaschi, la fondazione cede il 10%, questo è il titolo di apertura. Montepaschi, accusa di truffa, così apre invece il Corriere della Sera. Repubblica, Montepaschi, manager accusati di truffa. E il Fatto Quotidiano, Montepaschi, così Banca Italia ha chiuso gli occhi. Per il Messaggero, caso Montepaschi, si indaga per truffa. Questi sono i titoli dedicati alla vicenda della banca. La Stampa invece: lavoro, ecco il piano Monti. Libero, Montepaschi, la prova della stecca. Il Giornale: dopo i miliardi ora spariscono i voti, e Bersani e soci in crisi, scrive il Giornale. L'Unità: manovra il bluff di Monti, mentre il Manifesto apre su il missile di Ustica. È stato un missile, questo è il titolo per la causa di risarcimento civile. Il Giornale invece, Avvenire, mette in primo piano la prolusione al Consiglio Permanente della CEI di Bagnasco, i sì che si devono dire, questo è il titolo di apertura che trovate. Prima però voglio partire da una notizia che troverete magari all'interno della Stampa. Mi ha molto incuriosito, oltre che fatto arrabbiare parecchio, perché è da queste piccole notizie, da queste piccole grandi notizie che si capisce poi che il paese va allo sbando. Sentite qui, pagina 17 della Stampa. Ah, prima la solita raccomandazione: avete ben le mani salde sul volante, perché sennò succedono cose strane se state guidando. Finti poveri, veri ladri per rubare i posti negli asili di Roma. Questo è il titolo: denunciate 3.556 persone, falsi poveri, definiti dalla Guardia di Finanza parassiti, perché imbrogliando sull'ISEE, l'indicatore economico, chiedevano sconti per i figli, per le rette all'asilo, per non pagare la mensa, e magari, scrive Maria Corbi, sfrecciavano con il SUV. Tenendo ben le mani ferme sul volante invece di metterle al collo, cosa pensereste di queste persone? Cosa pensate? Cosa fareste a queste persone, cari italiani? Eccolo qui, Maria Corbi: poveri, ma solo quando si tratta di iscrivere i figli al nido. Chiedevano esenzione alla retta, precedenza nelle liste d'attesa, la mensa gratuita, arrivavano a compilare la domanda magari sfrecciando su un potente SUV. Storie di ordinario malcostume, qualcosa di più, una truffa alla collettività, soprattutto in un momento come questo dove non ci sono famiglie che fanno veramente fatica ad arrivare alla fine del mese, spesso non ci arrivano, per non parlare poi della truffa ai conti dello Stato. Dicono alla Guardia di Finanza: sui grandi numeri c'è sempre una certa percentuale di impunità, la gente ci prova. Ecco, la gente ci prova, cari italiani, poi cosa ci lamentiamo della politica, dei politici? La gente ci prova, questo certifica la Guardia di Finanza. Magari sono le stesse persone che poi vanno nelle trasmissioni, nelle piazze, a urlare scandali contro la classe che ci dirige, no? Quelli che truccavano i conti ISEE per non pagare, che ne so, 50 centesimi al giorno di mensa per i figli, o l'esenzione per le liste, per avere la precedenza delle liste d'attesa. Bravi, complimenti. Per la Guardia di Finanza, queste frodi alla previdenza, al sistema assistenziale, scoperte, solo quelle scoperte, perché poi ci sono quelle che non vengono scoperte, sono costate allo Stato 103 milioni di euro. 103 milioni di euro, per un totale di 9.632 persone denunciate. Bravi, Complimenti. Poi vi lamentate degli altri. Vorrei anche andare su quest'altra notizia che ho trovato. Io avrei dato più spazio sui vari giornali, invece l'ho trovata solo sul Sole 24 Ore a pagina 39. Si torna sulla famosa vicenda delle quote latte. Le quote latte, sentite cosa è successo da parte della Corte dei Conti in Piemonte. Tra l'altro è quella vicenda che ha portato di recente anche alla perquisizione delle sedi della Lega sia in Piemonte che a Milano. Condanna record sulle quote latte, Gianni Trovati, lo trovate nel dorso Imprese e Territori sul Sole 24 Ore a pagina 39. Nella tormentata vicenda giudiziaria delle quote latte entra in campo la Corte dei Conti, una condanna da record per danno erariale a carico di un ex senatore ed europarlamentare della Lega Giovanni Robusti e degli altri animatori dei Cobas del latte. La sezione giurisdizionale piemontese della magistratura contabile ha chiesto a Robusti e soci di risarcire, udite udite, 203,2 milioni di euro per il mancato pagamento di multe tra il 1998 e il 2006. Dunque 8 anni, 203 milioni. E sapete a chi è capitata la tegola più pesante? È proprio a carico dell'ex senatore Robusti, chiamato a versare in solido con altri imputati, reggetevi forte, 182,4 milioni di euro. Cioè uno ti arriva a casa, la comunicazione della Corte dei Conti, devi versare in soldo con altri 182,4 milioni di euro. Condanna record sulle quote latte, il conto più salato proprio a carico del leader Giovanni Robusti, ex senatore della Lega. C'è poi tutto il sistema di come queste multe sono arrivate, il sistema delle cooperative per cercare di evitare queste multe. Questa è una condanna dalla Corte dei Conti. Verrà mai pagata? Ma per favore, siamo appunto in Italia. Vabbè, vi voglio lasciare con quella che io ieri l'ho aggiornata sul profilo Twitter, anzi vi invito a seguire Alino Milan se volete, quella che è diventata una lista ormai infinita degli a mia insaputa in Italia. Ma certo, abbiamo visto case, conti correnti, non so, barche, chi più ne ha più ne metta, ma quella del matrimonio a mia insaputa sinceramente mancava. E Gina Lollobrigida ci voleva far mancare questa ebbrezza? Eccolo qui, la Lollobrigida denuncia: sono sposata a mia insaputa. Ha scoperto di avere un marito per procura, il giovane spagnolo Javier, 44 anni, che l'ha sposata per procura in Spagna, dice lei, per frodarla sull'eredità. E allora in prima pagina del Secolo XIX, ma la trovate un po' ovunque, la Lollo denuncia: mi ha sposata a mia insaputa. A mia insaputa, ragazzi, sta diventando veramente da mettere sulla bandiera italiana. A mia insaputa. La Lollo sposa a sua insaputa. Elena Nieddu in prima pagina del Secolo XIX. C'è chi dice di essersi trovato una casa con vista sul Colosseo, chi un metaforico anello al dito. È incredibile quante cose si possano fare senza il consenso dell'interessato o l'interessata. In una parola, a sua insaputa. Gina Lollobrigida, 68 anni, ha accusato l'ex compagno Javier, 44, di averla sposata per procura in Spagna senza informarla, soprattutto senza il suo consenso. Il motivo? L'eredità. Potrebbe avermi sposata per procura allo scopo di ereditare i miei beni dopo la morte. Ieri l'amara scoperta. Lollobrigida, insieme al suo agente, digita su un non meglio precisato sito spagnolo a nome di Javier e scopre di essere sposata per procura. L'attrice va dai carabinieri e sporge denuncia, probabilmente a insaputa questa volta del suo ex compagno Javier, ovviamente. In ogni caso, il matrimonio a mia insaputa era un qualcosa che davvero mancava, eh? Per iniziare la giornata col sorriso sulle labbra, siete sposati a vostra insaputa? Cari italiani, controllate, controllate, che non è mai detto. Intanto rientriamo dopo la pubblicità e il meteo con le notizie dal Monte Paschi e dalla politica di questa campagna elettorale. Allora, eccoci qua alle 7:34 minuti. Monte Paschi Siena, ancora una notizia che campeggia sulle prime pagine dei giornali, per molti quotidiani è l'apertura di oggi. Le novità sono che i vertici dell'allora Monte Paschi Siena, con a capo presidente Mussari, ma non solo, poi i vertici dirigenziali di allora, sono indagati per truffa. oltre alle altre accuse, le contestazioni di aggiotaggio, ostacolo agli organi di vigilanza e turbativa. L'inchiesta della Procura di Siena ora indaga per truffa, perché l'accusa è che abbiano nascosto i derivati ai soci. Tra l'altro, la notizia che viene data sia da Corriere della Sera che La Stampa in ampio risalto a pagina 3 è questa: trovato sul conto di un manager di allora un tesoro da 20 milioni. Sono le indagini su Gianluca Baldassarri, così titola il Corriere della Sera pagina 3 con Fabrizio Massaro. I fondi poi in parte sono stati scudati. Eccolo qua: soldi all'estero, presunte tangenti ottenute dalle operazioni di finanziamento del Monte Paschi, lo scudo fiscale per ripulire. Questa l'ipotesi investigativa della Procura di Siena, che da mesi indaga su presunte tangenti o premi ai manager della banca nell'ambito delle operazioni di tesoreria dell'istituto. Ed ecco i primi risultati concreti: una massa enorme di denaro, circa 20 milioni di euro, è stata rintracciata come possibile provento di mazzette ed è considerata riconducibile all'ex direttore dell'area finanza di Monte Paschi Siena, Gianluca Baldassarri. L'ex manager dell'istituto, rimosso dal nuovo amministratore delegato Fabrizio Viola, con una buona uscita da 800.000 euro, come da verbale del consiglio di amministrazione, era da tempo nel mirino per le spericolate operazioni in derivati che hanno ingabbiato la finanza di Monte Paschi Siena. Dunque, avete sentito, insomma, l'accusa è quella di avere trovato, forse dalla parte della procura, 20 milioni di euro in fondi all'estero, fondi che sono stati in parte scudati, tra l'altro, dallo stesso Baldassarri. Il denaro sarebbe entrato in più tranche attraverso i tre scudi fiscali del 2001, 2003, 2010. Questo scrive il Corriere. E tra l'altro Baldassarri, quando è stato licenziato dall'attuale direttore generale di Monte Paschi, è uscito con una buona uscita di 800.000 euro. Per carità, sono tutte accuse da provare. Anche La Stampa: Monte Paschi Siena, trovati 20 milioni nei conti del super manager. A proposito di Monte Paschi, beh, certo, le mosse dei soci sono, come scrive il Sole 24 Ore, che la fondazione venderà il 10%. L'operazione verrà lanciata non appena il titolo tornerà sopra i 30 centesimi, racconta Cesare Peruzzi. Sono pronti a vendere almeno il 10% di Monte Paschi. Dunque la fondazione, che è l'azionista di maggioranza relativa col 34,9%, si prepara a cedere un consistente pacchetto di titoli per fare cassa, rimborsare l'ultima parte di indebitamento da 350 milioni che ancora la vede esposta nei confronti di un pool di istituti di credito di cui è capofila JP Morgan. Questa è la notizia per fare un po' di cassa, appunto, vista l'esposizione con le altre banche. Mentre interessante quello che scrive Repubblica con Massimo Giannini in prima pagina, il vice direttore di Repubblica, che ieri era nostro ospite, perché il titolo dell'articolo è molto chiaro: verso la nazionalizzazione di Monte Paschi e poi un nuovo socio, questa è la strada obbligata per il futuro della banca. Così il tesoro entrerà nel fortino di Siena, scrive Giannini. È una nazionalizzazione di risulta. Questa è la formula coniata da Monti. Lo Stato entrerà nel capitale del Monte Paschi usando la chiave dei Monti Bond e nessuno lo dichiarerà pubblicamente. Non lo farà il ministro dell'economia Grilli, che oggi nella tarda mattinata riferirà alla Camera. Non lo farà il comitato per la stabilità finanziaria, che si riunirà prima dell'audizione del ministro, alla presenza di Ignazio Visco e Saccomanni per la Banca d'Italia e di Vegas e Caputi per la Consob. Ma basta una rapida ricognizione tra autorità di governo e organi di vigilanza per rendersi conto che il destino del Monte è praticamente già scritto. Finirà in mano pubblica, in via provvisoria, per completare il risanamento con la garanzia del tesoro e nel frattempo trovare un grande azionista privato disposto a ricomprarselo. Questo è lo scenario forse più interessante che viene scritto oggi da Massimo Giannini su Repubblica. Dunque l'idea che, anche se non verrà certo annunciato oggi così in maniera brutale, questo è il destino: nazionalizzazione. Lo Stato entra nel Monte Paschi, ne cura il risanamento con le garanzie del Ministro del Tesoro, in attesa che si faccia avanti qualcuno, qualche socio, per ricomprarsi la banca. Andrà davvero a finire così? Come il ruolo di Bankitalia, che oggi ancora viene messo sotto la lente di ingrandimento dal Fatto Quotidiano con Marco Lillo. L'accusa è quella molto secca, cioè di non avere vigilato. Bankitalia, la vigilanza che non volle ascoltare, questo è il titolo dell'articolo di pagina 3 del Fatto Quotidiano. Dopo l'acquisto di Anton Veneta, il Monte ha fatto di tutto per far sparire le perdite e gli ispettori lo sapevano. Questa è l'accusa molto circostanziata, specifica, molto dura da parte del Fatto Quotidiano, perché gli ispettori, scrive il Fatto, scoprono che alcuni investimenti a lungo termine finanziati con repo di pari scadenza presentano profili di rischio non adeguatamente controllati. Questo è il virgolettato del risultato dell'ispezione. Si sono determinati consistenti assorbimenti di liquidità, oltre 1,8 miliardi di euro riferiti a due operazioni del complessivo importo nominale di 5 miliardi stipulate con Nomura. Questo si legge nel verbale pubblicato dal sito l'inchiesta.it. E quindi Bankitalia, da un lato, sa che Montepaschi ha un disperato bisogno di distribuire un utile nel 2009 e dall'altro vede nei conti della banca le operazioni realizzate a prezzo fuori mercato per nascondere le perdite di Alexandria e truccare il bilancio del 2009. Ma, scrive il Fatto, non fa 2 più 2 e non prende provvedimenti. Questa è l'accusa. Dunque Bankitalia sapeva e doveva vigilare. Vi segnalo anche, per concludere questo argomento, un'intervista all'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Enrico Tommaso Cucchiani, intervistato da Sergio Bocconi per il Corriere della Sera, pagina 5, vuole rassicurare anche un po' tutti i correntisti, tutti i soci sul sistema bancario, e dice: il Monte Paschi è un caso isolato. Noi abbiamo una reputazione di una vigilanza rigorosa, severa, qualificata, anche più di altri paesi. Ripeto, è un caso isolato sul quale per varie ragioni si sono costruiti giudizi del tutto infondati. A proposito dell'accusa di speculare, di una finanza creativa legata alle banche, sentite cosa dice l'amministratore delegato di Intesa San Paolo. Anche qui circolano valutazioni improprie. Gli abusi fanno dimenticare qualche volta che speculazione e derivati sono essenziali per il funzionamento dell'economia reale, per l'operatività di qualsiasi azienda. Per esempio, un'impresa che esporta si deve ricoprire rispetto a rischi come quello di cambio, ed è indispensabile che a fronte di queste coperture ci sia qualcuno che, tra virgolette, speculi per eliminare il rischio d'azienda. Le medicine, come la penicillina, possono curare o, in caso di abuso, ottenere l'effetto contrario. Quindi, se si utilizzano i derivati per truccare i bilanci, siamo all'abuso. Ma la metafora è questa. Sono come la penicillina, i derivati. Se usati bene, fanno bene, sono necessari. Se usati male, e sono delle medicine che si trasformano in qualcosa di tossico. Così l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, intervistato dal Corriere della Sera. E per quel che riguarda la politica, invece, è la solita cosa da mani nei capelli. Ieri i giornali si interrogavano a lungo, e ancora oggi ci sono un po' di strascichi sulla questione della frase di Berlusconi su Mussolini. Ieri poi Berlusconi è intervenuto a dire che sono il più grande amico di Israele come governo, e quindi è tutta una cosa ridicola, è tutta una montatura. Monti ieri ha preso un po' il centro della scena, quando ha promesso il taglio delle tasse, tra l'altro anche come immagine, quando ieri era alla 7, chi l'ha visto al mattino presto, quando gli hanno chiesto delle tasse, ha tirato fuori 4 fogli e ha iniziato a leggere, tra l'altro non staccando mai gli occhi dal foglio, e ha detto: taglieremo l'IMU così, taglieremo l'IRAP, taglieremo l'IRPEF. Insomma, ha fatto il vero contratto con gli italiani, e questo ha bruciato un po' sul tempo, magari con un modo di comunicazione da rivedere, da perfezionare, però il vero contratto con gli italiani, tanto annunciato da Berlusconi, l'ha fatto lui con questo annuncio. Poi ha detto sulla manovra: dipende dal voto, io la escludo, ha detto Monti, però poi dipende da come vanno le elezioni, per cui si è parlato subito di ricatto, per esempio, da parte della leader CGIL Susanna Camusso. Certo, è andato un pochino in tilt Monti su questa storia delle vacanze. Ora troverete sui giornali, che qualche giornale addirittura ci ha aperto, come il Secolo XIX, Monti taglia le vacanze. A un certo punto si è sparso il panico, perché Monti ha detto: le scuole dovrebbero stare chiuse un mese solo, le vacanze dei figli, Perché? Questo per permettere di stare, di venire incontro anche ai genitori che lavorano, che non sanno dove parcheggiare, tra virgolette, un brutto verbo, i figli. E in secondo luogo per non gravare troppo sugli insegnanti, sul sistema scuola, eccetera. E il secolo XIX titola così, in prima pagina, Monti taglia le vacanze, scuole aperte 11 mesi. In realtà poi in serata è intervenuto Mario Sechi, che è il responsabile comunicativo della campagna di Monti, ha smentito, ha detto no, il piano scuola verrà svelato a giorni, perché già subito i sindacati, figuratevi, della scuola si erano messi di traverso, avevano iniziato a dire un profluvio di dichiarazioni, no, non si può fare. Cioè in Italia, ancor prima di pensare di fare una cosa, giusta o sbagliata che sia, bam, parte subito la polemica, assolutamente non si può fare, dibattiti, controdibattiti, agenzie, un attentato, così, e così di risultato in genere non si fa niente. Comunque la vicenda delle ferie è stata smentita in serata, quindi per il momento le scuole rimangono aperte così, in attesa di capire a giorni se il piano scuola di Monti preveda davvero questa chiusura solo di un mese delle scuole in Italia. Invece c'è una bozza sul lavoro che La Stampa mette in prima pagina con retroscena di Fabio Martini, da qua ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Allora, pare che la bozza sul lavoro da parte del Premier Mario Monti sia ormai in fase di concretezza sempre più definita. Noi ne abbiamo già anticipato qualcosa quando abbiamo ospitato Ichino, il senatore Pietro Ichino, e Oscar Giannino settimana scorsa. E infatti La Stampa scrive: la nuova fase della salita in campo prevede proprio questo, puntare sul lavoro, più posti e flessibilità in uscita. E scrive La Stampa con Fabio Martini, dopo che si è riunito Monti con Ichino, con Alberto Bombassei, Giuliano Cazzola, Mario Mauro, cioè coloro che stanno mettendo appunto questa bozza sul lavoro, pare che l'essenza della proposta Ichino, cioè estendere il più possibile i contratti a tempo indeterminato, asciugando tutte le forme di sommerso, ma rendendo tutto questo meno costoso, perché sì, contratto a tempo indeterminato, ma una sorta di sospensione dell'articolo 18, cioè nel senso maggiore flessibilità in uscita. Dunque contratti a tempo indeterminato, ma garantendo anche l'uscita, la flessibilità, la cosiddetta flex security. E questa è la bozza che in realtà non entusiasma, scrive Martini sulla stampa, né la CGIL né Confindustria. Infatti Monti proporrà in via sperimentale e a legislazione vigente queste novità, attingendo alle opportunità di deroga offerte dall'articolo 8 del decreto legge 138 voluto dal governo Berlusconi. Vabbè, queste sono cose tecniche. Comunque pare che sia in arrivo questa agenda sul lavoro, agenda bollata in maniera negativa già dal Manifesto, che in genere bolla tutto in maniera negativa, tutta l'agenda proposta ieri da Mario Monti anche sulla riduzione delle tasse, tanto che scrive Monti all'agenda di Arcore, lo chiamano il Cavaliere Monti, no? Per mettere con questa sorta di crasi sia Monti vicino a Berlusconi. Invece Repubblica, in un retroscena, scrive che Monti è già in pratica quasi d'accordo col PD nell'accordo post-elettorale. Insomma, come sapete, come vedete, tutti accordi, accordicchi, dichiarazioni contro dichiarazioni sui programmi, davvero sempre quasi quasi zero. Ma noi siamo sempre ottimisti, magari i giornali ci regaleranno anche qualcosa sui programmi, per ora solo alleanze. Il retroscena di Repubblica è proprio questo: Mario e la grande coalizione col PD, la strategia secondo Francesco Bei su Repubblica pagina 11 di Mario Monti è questa: cercare di ottenere il 20% e quindi rendere la competizione come se fosse Monti contro il PD, il vero avversario, loro due, per oscurare Berlusconi, magari sottrarre dei voti anche al Partito Democratico, arrivare al 20%, questo da parte di Monti, è tutto retroscena di Francesco Bei, e poi fare l'accordo con lo stesso PD, da una posizione un po' più di forza. Dobbiamo arrivare al 20%, solo così i voti di Vendola non saranno più necessari. Questa è la strategia elettorale, secondo Repubblica, che sta portando avanti Mario Monti. Oh, vi ha scandalizzato la frase di Anna Finocchiaro che abbiamo sentito? Qui stiamo parlando di parlamentari della Repubblica, mica di bidelle, con tutto il rispetto per le bidelle, ovviamente aggiunto. Libero con Mario Giordano in prima pagina, la Finocchiaro insulta le bidelle. C'è da dire che in rete effettivamente c'è un po' stata un po' una rivolta contro questa frase della Finocchiaro, ma si sa, la rete rappresenta una parte, insomma, della popolazione italiana. Lei è parlamentare, capito? Scrive Giordano. Non è mica una bidella, anzi di più, lei è Anna Finocchiaro, senatrice, capogruppo, già candidata, trombata alla presidente della Sicilia, futura candidata alla presidenza della Repubblica, magari candidata all'ONU, a Miss Muretto, alla presidenza del Circolo della Nobildonna, perché no, alla Conferenza Mondiale del Gioco del Bridge, mica una bidella. Sia detto con rispetto delle bidelle, soprattutto del gioco del bridge. Lei ha le unghie sempre curate, un foulard al collo, un filo di profumo, mica puzza come quelle infelici che stanno tutto il giorno con lo sciacquone nei corridoi della scuola. Voi capite che orrore! Lavano, asciugano, lavano ancora spazzolone e detersivo. Non oso immaginare come saranno rovinate le loro mani a fine giornata. Per fortuna nessuno la invita al circolo della Nobildonna. Altrimenti ti immagini chissà le posate d'argento come si troverebbero a disagio. Lei è parlamentare, capito? Non è mica una bidella. Ebbene, insomma, ha dichiarato così e Mario Giordano, come umana la sinistra, la Finocchiaro insulta le bidelle. Scrive Giordano, come se fosse un vanto per la Finocchiaro far parte della categoria più screditata dell'universo, e ovviamente non sto parlando delle bidelle. Vabbè, la campagna elettorale è anche questa. Io vi potete trovare tanti articoli sulla vicenda Ustica. Il missile provocò la strage, così ha stabilito un giudice civile. Tanti anni dopo il 27 giugno 1980, quando 81 passeggeri, inclusi 11 bambini, morirono per quello che per il giudice civile è stato un missile, dunque va risarcito con 110 milioni il risarcimento ai familiari delle vittime. Per ora però è stato fissato solo l'obbligo di rifondere le spese legali pari a circa 6.300 euro, poca cosa. Non fa chiarezza la sentenza, è una sentenza civile. E quindi non è che però in Cassazione la sentenza penale in realtà su come sono andati veramente i fatti non c'è stata, e quindi insomma la storia anche di un'Italia confusa. Troverete tanti articoli di tutte le ricostruzioni, di tutti gli insabbiamenti di quello straordinario film Il Muro di Gomma, che riguarda uno degli aspetti davvero più drammatici mai chiariti della storia della Repubblica Italiana. Chiudo con il capo della polizia Antonio Manganelli, che scrivono i vari giornali nell'ambito di una inchiesta della Procura di Napoli sugli appalti del centro elettronico, intercettato, si lamenta del fatto che tutto viene spiattellato sui giornali e ora finisce lui spiattellato sui giornali. Anche questo è uno strano paese. Il capo della polizia Manganelli al telefono definì i magistrati cialtroni. Parla del fatto che tutto esce sui giornali e scrivono il Corriere della Sera con Fulvio Buffi, dice al telefono Manganelli: a me pare grave il fatto che un cialtrone di magistrato dia la notizia indebitamente sui giornali in violazione di legge. E che contrappasso è questo? Una intercettazione in cui il capo della polizia si lamenta che tutto finisce sui giornali, questa intercettazione finisce sui giornali. Ma è proprio uno straordinario paese. Andiamo al giornale radio. We'll be right back.